E con questo io non voglio assolutamente sminuire quelle che sono le rivelazioni che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore, quello che lo Spirito Santo ci porta a fare ogni giorno. Ma dagli Atti degli Apostoli, da questi versi in particolare, impariamo che le nostre scelte possono essere sane e buone nella misura in cui si rapportano allo Spirito Santo e alla Chiesa. Molto importante. In questi 15 anni di conversione, vi apro un po' un momento personale, no? Ho scritto momento personale. Sono sempre stato incuriosito da quelle persone che si mandano da sole. Non so se voi ne avete mai incontrato qualcuno, no? Però in genere se devi essere mandato a quel paese, qualcuno ti manda. Se poi tu ti mandi da solo, c'è qualcosa che non va, giusto, pastore? La Chiesa in Olanda, sotto la guida dello Spirito Santo, aveva mandato Sofia in missione in Italia. E i missionari che hanno iniziato l'opera in Puglia, mandati dalla Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, hanno mandato il pastore Pinuccio e Sofia ad essere i pastori della nostra Chiesa. E il pastore Pinuccio e Sofia, con la Chiesa tutta, sotto la guida dello Spirito Santo, ha mandato Mirko Christian Ronchi ad essere il nostro pastore. Noi corriamo mandati dalla Chiesa. Non ti mandare da solo. Fatti mandare dalla Chiesa a scoprire quel valore e quel significato che il tuo tassello può apportare e può aggiungere alla missione che Dio ha di salvare le persone che ancora non lo conoscono. Molto importante. Proseguiamo al verso 4, leggiamo che essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono per Cipro. Il primo viaggio missionario della storia ha inizio. Fino a questo punto, nel cristianesimo, l'opera evangelistica dei discepoli e degli apostoli era stata circoscritta alle aree della Siria, ai territori della Siria e della Palestina. Nessuno aveva ancora preso responsabilità di portare il messaggio di Gesù oltre il mare. E leggiamo che qui scesero a Seleucia, prego la regia di mandarci la piantina per scoprire insieme. Da Antiochia scesero a Seleucia e da Seleucia si imbarcarono alla volta di Cipro. Arrivarono a Salamina, entrarono nella sinagoga, leggiamo in Atti 13, e predicarono di sabato nella sinagoga, attraversarono tutto Cipro, arrivarono a Pafo. A Pafo trovarono il proconsole Sergio Paolo, gli predicarono il Vangelo nonostante le insidie di un mago che si chiama Elima. Queste le possiamo tutte leggere, versi 5, versi 6, 7, 8. Da Pafo, dopo aver predicato al proconsole Sergio Paolo, si imbarcano alla volta della Panfilia, arrivano ad Attalia, passano per Perga e raggiungono la città di Antiochia. Questo me lo sono scritto, Antiochia di Pisidia. Sono tutti questi nomi. Antiochia di Pisidia, che è diverso da Antiochia da dove erano partiti. E lì entrano nella sinagoga e continuano a predicare, tanto che quelli della sinagoga gli dicono: tornate sabato prossimo, non fatelo solo una volta, fatelo più volte. E continuano a rimanere ad Antiochia fino a quando non verranno letteralmente cacciati. Lo leggiamo al verso 49, che la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Deve essere interessante, che li hanno cacciati dal loro territorio, li hanno presi per capelli, ve ne dovete andare da questa città. E usciti da Antiochia si sono recati a Iconio. E leggiamo dal capitolo 14 che anche a Iconio Paolo e Barnaba, che cosa hanno fatto? Si sono spaventati? No. Entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia, molto interessante, rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione era divisa. Gli uni temevano per i greci, per i giudei, e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni. E indovinate un po'? E là continuarono a evangelizzare. Punto numero due. Noi corriamo affrontando le opposizioni. E io prego che questa affermazione, che noi corriamo affrontando le opposizioni, diventi un rema per la nostra vita da questa stagione in poi. Io credo che è arrivato il momento di crescere e diventare grandi e sapere ed essere consapevoli che la missione che abbiamo abbracciato ci porterà delle opposizioni. La missione e i territori che Dio vuole conquistare attraverso di te, nella tua famiglia, sul tuo posto di lavoro, nella tua vita, in quelle cose che tu devi lasciare, troverà delle opposizioni, ma noi possiamo affrontarle perché non siamo stati mandati da soli. È lo Spirito Santo che ci ha mandato. E se lo Spirito Santo ci ha mandato, Lui è con noi e Lui ci dà la possibilità, Lui ci dà la forza, Lui ci dà la sapienza di affrontare quelle opposizioni per conquistare quello che Dio ha stabilito di voler realizzare attraverso della tua vita. Basta a lasciarci scoraggiare. Basta. Paolo e Barnaba non lo hanno permesso. Non lo hanno permesso. Loro rimasero tuttavia per molto tempo. E ne avevano già avute di cotte e di crude, predicando con franchezza e confidando nel Signore. E lo avevano fatto a Salamina, lo avevano fatto a Pafo, e poi ad Antiochia di Pisidia, e ora erano a Ioconio, e da Ioconio sarebbero andati, avrebbero continuato a Listra, avrebbero continuato a Derba, e poi, non stanchi di tutto questo, sarebbero ritornati in ogni città dove erano già stati e da dove erano stati cacciati. Da dove sei stato cacciato questa mattina nel predicare il Vangelo? Chi ti ha cacciato? Quando hai gettato la spugna e hai smesso di predicare che Gesù è vivo? Smettila. Smettila di fare l'offeso. Questa è una parola per te questa mattina. E affronta quello che viene contro di te. Non c'è spazio per offenderci, non c'è spazio per tirarci indietro, non possiamo stancarci, non possiamo arrenderci, non possiamo spaventarci, non possiamo scoraggiarci, non possiamo tirarci indietro. Non lo possiamo fare, perché noi corriamo sacrificando la stessa vita. Punto numero tre. Noi corriamo sacrificando la stessa vita. Verso 19 si fa interessante. Allora giunsero da Antiochia e da Ioconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Cioè Paolo era stato preso a pietrate, era svenuto sicuramente, era caduto per terra, tanto che sembrava morto, e queste persone l'avevano trascinato fuori dalla città. Oh, ma devo dire che questo primo viaggio missionario per conquistare l'estremità della terra, se lo guardiamo da questo punto di vista, un successone, no? Che fortuna che lo Spirito Santo, è il caso di dire, ha messo Paolo e Barnaba. Meno male che non ha detto altri nomi, qualcuno avrà pensato. Mamma mia! Un grande successo. Io credo che fino a quando non sarai preso a pietrate, tanto da svenire per terra e sembrare morto, tu ce la puoi fare. Credo che fino a quando noi non sperimenteremo questo, noi ce la possiamo fare. Noi possiamo correre sacrificando la vita stessa. Che cosa è sacrificare la vita stessa per noi? Oggi, 2017, in Italia, a Modugno. È veramente fuori dalla nostra portata poter leggere la Bibbia e pregare ogni giorno? È veramente così fuori dalla nostra portata pregare per i nostri colleghi, pregare per i nostri amici, pregare per la nostra famiglia? È veramente così fuori dalla nostra portata perdonare chi ci ha ferito? È veramente così? È veramente così fuori dalla nostra portata poter amare le persone intorno a noi come Gesù le ama? Oppure possiamo farcela? Oppure possiamo sacrificare parte del nostro tempo? Oppure possiamo sacrificare i nostri sentimenti di giustizia che non ci fanno perdonare le persone che ci hanno fatto male? Oppure possiamo sacrificare le nostre parole negative che non servono a nessuno? Io sono convinto che noi ce la possiamo fare. Io sono convinto che tu ce la puoi fare. E Gesù ce l'aveva già detto. In Marco 8:35 gli aveva detto che chiunque voleva salvare la sua vita l'avrebbe persa, ma chi avrebbe perso la sua vita per amore suo e dell'Evangelo l'avrebbe salvata. Ed è questo quello a cui noi siamo chiamati. Continuando la storia di Paolo e Barnaba, essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città credendolo morto, verso 20, ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Non si era spaventato questo qui, aveva la pelle dura. E il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E indovinate un po', dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede. Cioè non erano loro che avevano incoraggiato Paolo a dire non ti preoccupare che va tutto bene, hai solo qualche bernoccolo, qualche trauma cranico, però tutto a posto, sei ancora vivo. Era lui che li ha incoraggiati. E sentite come li ha incoraggiati? Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Un bellissimo messaggio per noi questa mattina, di gioia e speranza. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia e dopo averne annunciato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Lo so che è forte quello che Paolo dice, che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ma noi abbiamo lo Spirito Santo. E io ho trovato su Instagram un selfie che Paolo si è fatto prima di imbarcarsi per ritornare ad Antiochia e ve lo voglio fare vedere, prego la regia di mandarlo. Eccolo qui. Si è fatto una foto dei piedi sporchi di fango che avevano attraversato tutte le regioni, che erano stati lapidati, che erano stati provati, e ha citato Isaia 52 e ha scritto quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion il tuo Dio regna. Quanto sono belli i piedi nostri quando noi annunciamo la buona notizia. Forse saranno dei piedi provati dal cammino che abbiamo fatto. Forse saranno dei piedi sporchi, infangati da quello che abbiamo incontrato, ma saranno dei piedi vittoriosi. perché loro sono ritornati e al verso 27, giunti ad Antiochia e riunita la Chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri. E rimasero con i discepoli per parecchio tempo. Dalla Chiesa erano partiti e alla Chiesa erano ritornati. E la storia nostra non sarebbe stata più la stessa perché i gentili avevano accolto la parola di Dio. Non quelli che vivevano in Palestina, non quelli che vivevano in Siria, quelli che vivevano nelle loro case, quelli che vivevano nei loro posti, avevano ascoltato che Gesù era vivo e avevano detto di sì. Noi corriamo mandati dalla Chiesa. Noi corriamo affrontando le opposizioni. Noi corriamo sacrificando la stessa vita. Anno 2017, ho trovato un altro selfie su Instagram dei nostri pastori Pinuccio e Sofia, di oggi, dei loro piedi che hanno conquistato e che continuano a conquistare in questa città, e hanno scritto lo stesso verso che Paolo ha citato in Isaia 52, qui lui lo cita in Romani, e dice: come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone notizie. Quanto sono belli i nostri piedi quando noi annunciamo le buone notizie. Alziamoci in piedi. Questa mattina abbiamo la cena del Signore. Stiamo per partecipare e per prendere parte a tutto questo. E Ebrei, al verso 28, capitolo 9, come abbiamo letto, dice che così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. E noi siamo coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Noi siamo qui riuniti questa mattina per aspettare che Lui possa ritornare e adempiere la missione che Lui ci ha affidato. E per aiutarci ad aspettarlo, Lui ci ha comandato di ricordare che il suo corpo è stato spezzato una volta e per sempre e che il suo sangue è stato versato una volta e per sempre. E con questa attitudine di aspettativa di quello che Gesù farà quando Lui ritornerà, io voglio incoraggiare noi questa mattina a prendere quel pane che è segno del corpo che Lui ha rotto per noi, e a prendere quel vino che è segno del sangue che Lui ha versato per noi, e a ricordarci che Lui sta tornando, che Lui è vivo e che Lui vuole servirsi di noi, che Lui vuole che noi possiamo correre. Io non so che scelta è davanti a te questa mattina, ma voglio incoraggiarti, in aspettativa del fatto che Lui sta tornando, a prendere la tua scelta alla luce di quello che lo Spirito Santo ha voluto rivelare questa mattina al tuo cuore, avendo certezza e fede dentro di te che questa scelta la stai portando a casa. Non rimarrà qui, non si esaurirà in un pezzo di pane e in un sorso di vino, perché quel pezzo di pane e quel sorso di vino te lo porti a casa ed è con te ogni giorno. Sì? Preghiamo? Signore Gesù, ti ringraziamo. Siamo grati per il tuo sacrificio che tu hai compiuto sulla croce. Siamo grati perché il tuo corpo è stato rotto per noi. Siamo grati perché il tuo sangue è stato versato per noi. E questa mattina vogliamo venire alla tua presenza, Signore Gesù, e partecipare alla cena del Signore, consapevoli che tu hai un piano che vuoi realizzare attraverso della nostra vita. E io prego che questa mattina le nostre scelte che facciamo davanti a te possiamo portarcele a casa, e possiamo viverle da domani, Signore Gesù, per quella vita straordinaria che Tu vuoi realizzare attraverso di noi. Grazie perché ci ritieni degni e ci rendi tali di poterti servire, Signore Gesù. Nel Tuo nome Ti amiamo e Ti lodiamo, Padre. Amen. Ognuno di noi che ha fatto una scelta per Gesù, battesimo in acqua da adulto, può venire avanti e partecipare alla cena del Signore. Se non hai ancora fatto questa scelta, fermati, prega, pondera quello che Gesù ti sta chiamando, perché questa scelta è anche per te. E Lui sapeva che saresti stato qui questa mattina e sa che questa è la scelta che Lui ha preparato per te. E se hai bisogno di preghiera, io sono qui avanti in questo momento, puoi venire e possiamo pregare insieme. Per tutti gli altri, noi partecipiamo alla cena.